Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Inchiesta sul Mose, il sindaco di Venezia Orsoni ha chiesto di patteggiare, torna libero, revocati i domiciliari, accusato di finanziamento illecito della campagna elettorale. 13 senatori del PD si sospendono dal gruppo per solidarietà con Corradino Mineo, sostituito d'Imperio in Commissione d'Affari Costituzionali. Cresce lo scontro con Renzi. In Iraq l'esercito avrebbe ripreso il controllo della città di Tikrit, ma gli jihadisti dell'ISIS sarebbero in movimento su Baghdad. Tra poco ci collegheremo con l'ambasciatore italiano. Nel frattempo arriva un'altra notizia, è saltata per mancanza del quorum la sessione del Parlamento iracheno che doveva decretare lo stato di emergenza. Sui mondiali ci siamo, si parte stasera con la cerimonia di apertura, poi Brasile-Croazia, mentre scatta lo sciopero dei lavoratori degli aeroporti di Rio. Sarebbe passata di mano, intanto per rimanere sul calcio, la Sampdoria. Secondo indiscrezioni, Garrone avrebbe venduto ad un imprenditore romano. Tra poco conferenza stampa della società. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete scriverci, come sempre, effettogiorno@radio24.it, c'è il mio account Twitter, Simone Spezia, e se volete c'è anche il numero di SMS 349-238-6666. Iniziamo dal Mose. È tornato in libertà Giorgio Orsoni. Il GIP questa mattina ha revocato gli arresti domiciliari per il sindaco di Venezia, che resta comunque indagato nell'ambito dell'inchiesta sul Mose. Nell'interrogatorio di garanzia Orsoni ha raccontato che a beneficiare dei soldi del consorzio Venezia Nuova è stato il PD locale. Io, ha spiegato, non ho visto un euro. La campagna elettorale nel 2010, questa la ricostruzione di Orsoni, sembrava giocare a favore di Brunetta, e così tre persone, Michele Mognato, Gianpietro Marchese e David Zoggia, lo spinsero ad accettare quei soldi per il partito. Quanto a Mazzacurati, nei verbali si legge di un uso privatistico delle risorse pubbliche che si concretizzava finanche nel sostenere i costi dell'installazione di impianti di climatizzazione in abitazioni private. Il caso più clamoroso riguarda un lussuoso appartamento in Piazza di Spagna a Roma, per l'acquisto del quale Mazzacurati avrebbe utilizzato sempre il consorzio. Consorzio che peraltro avrebbe finanche assunto il filippino che lavorava a casa sua. A tempo intanto, fino al 4 luglio, la giunta per le autorizzazioni a procedere per decidere sull'arresto dell'ex governatore del Veneto, Giancarlo Galan. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro dall'inchiesta sul Mose, ma in primo piano in queste ore c'è anche un'altra inchiesta, quella che ha coinvolto e sta coinvolgendo i vertici, parte dei vertici della Guardia di Finanza. Ci colleghiamo con Napoli e con Laura Viggiano, perché l'inchiesta viene proprio da quella procura. Laura, buongiorno. Sì, buongiorno. Infatti ci sono i nomi dei vertici della Guardia di Finanza nell'inchiesta napoletana, in particolare il nome del generale Vito Barbi nell'ordinanza di arresto del colonnello Mendella, comandante della Guardia di Finanza di Livorno, non emerge, ma il numero 2 delle Fiamme Gialle, destinatario di un decreto di perquisizione eseguito ieri, risulta indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta partenopea avviata un anno e mezzo fa su verifiche fiscali ritoccate per evitare problemi ad alcuni imprenditori napoletani. Da dichiarazioni e indagini si evince che tra il 2006 e il 2012 sono stati pagati complessivamente più di 1 milione di euro a Mendella tramite un commercialista napoletano, De Rio, da parte di imprenditori, in particolare di imprenditori pizzicato. Dai verbali emergono tranche mensili cresciuti nel tempo da 15 a 30 mila euro al mese, gite in barca e vacanze in Sardegna in cambio di piaceri da parte del colonnello. Secondo i magistrati napoletani Piscitelli e Woodcock, anche altre persone avrebbero beneficiato delle tangenti pagate, e l'indagine della Digos e della stessa Guardia di Finanza, ancora in corso, dovrà chiarire altri particolari e delineare altre posizioni. A Mendella e De Rio sono state contestati reati di concorso in concussione per induzione e rivelazione di segreto d'ufficio, ma in un altro filone di indagine, sempre partenopea, risulta indagato anche un altro generale in pensione della Guardia di Finanza, Emilio Spaziante, già arrestato per il caso Mose. È tutto. Grazie a Laura Viggianon per questi aggiornamenti. E adesso noi ci spostiamo alla politica, perché da quel che vedo dalle agenzie la tensione tra la maggioranza del Partito Democratico e la minoranza, ossia tra il governo e la minoranza, sta crescendo di minuto in minuto. Ci sono anche le dichiarazioni del ministro Boschi e di Lotti. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, Simone. Andiamo subito a parlare del siluramento di Corradino Mineo e Vannino Chiti in Commissione Affari Costituzionali del Senato, che sicuramente non passa liscio per Matteo Renzi. Infatti 13 senatori democratici si autosospendono e proclamano violata la Costituzione, lo annuncia in aula a Palazzo Madama il senatore del PD Paolo Corsini. La rimozione di Chiti e Mineo rappresenta un'epurazione di idee considerate non ortodosse. È una palese violazione dell'articolo 67 della Costituzione, prosegue Corsini, chiediamo il necessario chiarimento prima dell'assemblea del 17 giugno. E nel frattempo quindi i senatori si autosospendono dal gruppo dei democratici. Questo non potrà non avere conseguenze sui lavori parlamentari. Lo stesso Corsini ammette però che c'è tutto il tempo per ricomporre questa frattura ed è possibile un punto di mediazione. Tra i sospesi Casson, Corsini, Gad, lo giudice Tocci, oltre che gli stessi Mineo e Chiti. I due senatori si oppongono al Senato non elettivo proposto dal Premier Matteo Renzi, ma la loro presenza in Commissione Affari Costituzionali è fondamentale perché i numeri sono esigui per la maggioranza, si tratta di un solo voto in più. Una decisione comunque, quella dell'epurazione, di cui si fa carico il Premier Matteo Renzi, che dice appunto non arretriamo di un millimetro dalla riforma del Senato elettivo e non lasciamo a nessuno il diritto di veto. Queste insomma le novità. Queste sono le ultime novità, appunto, come si diceva. Poi ci sono le dichiarazioni del sottosegretario della Presidenza del Consiglio Lotti, che dice in 13 non possono discutere il volere di 12 milioni, e della ministra Boschi, dice il processo delle riforme va avanti, non si può fermare per 10 senatori. Tra l'altro sentiremo tra poco proprio Vannino Chiti, una delle persone, uno dei senatori direttamente coinvolti in questa vicenda. Si diceva di Renzi, le sue parole a proposito del veto posto da alcuni senatori, e non solo, perché il Presidente del Consiglio è in visita in Cina, non ha parlato solamente di quello. Sentiamo questo breve estratto di questo suo intervento stamattina. Conta molto più il voto degli italiani che il veto di qualche politico che vuole bloccare le riforme. Siccome contano più i voti dei veti, vi garantisco che andiamo avanti a testa alta. Non ne passo più dell'idea di un'Italia rassegnata, rannicchiata, impaurita. Basta. Basta con questa logica per cui noi guardiamo soltanto le cose che non vanno. Basta con questo atteggiamento per il quale noi siamo tante volte i peggiori direttori commerciali di noi stessi. Siamo come quel negozio, voi immaginate un negozio dove il titolare dice: oh, non entrare da me, non venire a comprare la roba da me, non guai a te se entri dentro, perché abbiamo un sacco di problemi. Così dunque Renzi. Noi passiamo all'estero e a parlare di Iraq, perché dilaga l'offensiva dei ribelli jihadisti che ha provocato 500.000 di profughi civili negli ultimi giorni. Indossate le vostre cinture, siate pronti. Un messaggio audio del portavoce dello Stato Islamico in Iraq e del Levante, Abu Mohammed al-Abdani, esorta gli insorti a marciare sulla capitale e critica il premier iracheno Nuri al-Maliki per la sua incompetenza. La battaglia breve arriverà a Baghdad e a Karbala, dice. I combattenti che hanno già conquistato Mosul e Tikrit, respinti alle porte di Samarra, sono a 90 chilometri dalla capitale. Il governo dell'Iraq ha chiesto agli Stati Uniti di velocizzare l'invio di aiuti militari promessi. Il vicepresidente americano Joe Biden ha condannato il sequestro da parte dei miliziani del personale del consolato turco a Mosul in Iraq e ha detto che il suo paese è pronto a sostenere gli sforzi di Ankara per liberarli. Up to 500,000 people have fled Mosul City. Sono 500.000 i profughi scappati da Mosul, racconta Jeffrey Bates, portavoce UNICEF Iraq da Baghdad. La comunità internazionale, sottolinea, ha finora sottovalutato quello che stava per accadere. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questo è il quadro dall'Iraq. Abbiamo parlato poco fa di riforme istituzionali e però naturalmente il governo è impegnato anche su altro, a partire dalla riforma della pubblica amministrazione. È in corso l'incontro tra il ministro Madia e i sindacati. Vogliamo fare un punto su quello che sta ipotizzando l'esecutivo con Davide Colombo del Sole 24 Ore. Davide, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, quali sono le ipotesi in campo? Perché abbiamo letto anche di questa idea di 100 chilometri di distanza, ossia mobilità obbligatoria per i dipendenti pubblici entro i 100 chilometri di distanza dal luogo nel quale si trovano adesso. Sì, questa è una delle ipotesi che dovrebbe essere contenuta nel decreto legge. Dalle prime indicazioni che stanno uscendo da questo incontro, appunto, c'è la conferma che domani il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto e un disegno di legge delega con l'impegno poi di approvare questo secondo entro 6 mesi. Quello della mobilità obbligatoria e volontaria dovrebbe rappresentare uno dei pilastri per cercare di gestire questa riorganizzazione complessiva del pubblico impiego. Gli altri sono quello della part time da una parte e della abolizione del trattenimento in servizio per chi ancora lavora avendo superato i limiti pensionistici, per innescare quella che il ministro ha più volte auspicato, staffetta generazionale dentro le amministrazioni statali e territoriali. Senti Davide, noi abbiamo visto in questi giorni che l'attuale esecutivo preferisce spesso fare a meno del confronto con i cosiddetti corpi intermedi. Secondo te che margini di trattativa ci sono con i sindacati a tutti gli effetti? Cioè, quella di oggi rischia di essere solo una presentazione della riforma da parte della Madia, o ci sono dei segnali di apertura verso le organizzazioni dei lavoratori? Ma sai, si tratta di capire quanta parte delle misure sul pubblico impiego vogliono mettere nel decreto e invece quanto avrà spazio il disegno di legge delega. Secondo me avere anticipato comunque una volontà del governo di riaprire il confronto sul contratto nel 2015 è un'apertura importante che credo i sindacati in qualche modo poi coglieranno, perché abbiamo il contratto nazionale del pubblico impiego che è fermo al 2009, l'annuncio di questa apertura di trattativa nel 2015 implica un impegno di spesa tra i 6,5 e 7 miliardi su base annua, quindi in qualche modo si tratta di per i sindacati di incassare questa ipotesi, questa promessa. Poi appunto se parte dei provvedimenti saranno nella delega, margini di trattativa ci sono durante, nel senso che una volta approvato il disegno di legge delega, i decreti delegati, pensiamo alla riforma che fece Brunetta, possono essere oggetto oppure no di confronto con i corpi intermedi, come dici tu. Là non lo furono molto, questo è un nuovo governo, bisogna vedere come reagirà. Io intanto ti ringrazio, Davide Colombo. Tutti grazie gli aggiornamenti su questo anche sul Sole 24 Ore come sempre. Altra trattativa, altro tema in campo, quello di Alitalia. Alessandra Schepisi, anche qua oggi confronto con i sindacati, naturalmente essendoci il ministro Poletti, essendoci il ministro Lupi, si parlerà, immagino, prevalentemente di ammortizzatori per gli esuberi dopo l'accordo con Etihad. Sì Simone, oggi è il giorno in cui si entra finalmente nel vivo del confronto sul piano industriale per l'alleanza con Etihad, il giorno in cui poi dovrebbero conoscersi i dettagli di questo piano, soprattutto per quanto riguarda gli esuberi. L'incontro tra l'Italia e i sindacati è in corso dalle 10 e l'amministratore delegato Gabriele Del Torchio al suo arrivo ha subito chiarito che oggi parte la trattativa, non vengono inviate le lettere di licenziamento per gli esuberi previsti dall'accordo, dunque non ci sarà nessuno strappo da parte dell'azienda. E anche ieri lo stesso ministro Lupi ha annunciato che ci saranno una serie di tavoli settimanali di confronto per una trattativa che però non potrà durare all'infinito. A metà luglio bisognerà, dice Lupi, tirare le somme. 2250 gli esuberi previsti, tra cui gli 800 lavoratori già in cassa integrazione a 0 ore da 4 anni, a fronte, ricordiamo, la notizia è stata data ieri, di una iniezione complessiva da parte della compagnia emiratina di 1 miliardo e 200 mila euro, dunque oltre 560 milioni di euro già noti che andranno nel capitale sociale, ci sono altri 690 milioni di ulteriori investimenti in 4 anni. Sono giornate importanti, oggi è anche previsto un incontro tra Alitalia e le banche creditrici, perché l'altro nodo è quello della ristrutturazione del debito, mentre il ministro dei trasporti Lupo incontrerà nel pomeriggio il commissario UE a trasporti Callas, proprio per parlare del futuro della nostra compagnia di bandiera. A te Simone. E grazie anche alla nostra Alessandra Schepisi. Tra un attimo parleremo con uno dei senatori che è allo scontro del Partito Democratico, che è allo scontro con la maggioranza del PD, ossia Vannino Chiti, e poi naturalmente ci collegheremo col Brasile, perché oggi è il giorno nel quale iniziano i mondiali, ma dopo il traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Inchiesta sul Mose, il sindaco di Venezia Orsoni avrebbe chiesto di patteggiare, comunque tornato libero, revocati i domiciliari. Da quel che si apprende, da un punto di vista tecnico, è tornato sindaco a tutti gli effetti, tra poco dovrebbe tenere una conferenza stampa. In Iraq l'esercito avrebbe ripreso il controllo della città di Tikrit, ma gli jihadisti dell'ISIS sarebbero in movimento su Baghdad. Ci collegheremo più avanti nel corso di Effetto Giorno con l'ambasciatore italiano a Baghdad. Per i mondiali ci siamo, si parte stasera, cerimonia d'apertura e poi Brasile e Croazia, mentre scatta lo sciopero dei lavoratori degli aeroporti di Rio. Sarebbe passata di mano intanto la Sampdoria, secondo indiscrezioni, anzi sono state confermate proprio pochi istanti fa, Garrone ha venduto ad un imprenditore romano, in corso anche qua una conferenza stampa, quella della società. Vannino Chiti, senatore del Partito Democratico, benvenuto ai nostri microfoni, buongiorno. Grazie, buongiorno. Allora, naturalmente la chiamiamo perché è una di quelle persone, si sente epurato lei, per così dire. Ma mi sento in un momento certo un pochino imbarazzante, perché non è normale quello che avviene all'interno di un partito, perché il confronto su temi così importanti non può avvenire mettendo sotto piedi l'articolo 67 della Costituzione, che dice che ogni parlamentare è libero, non ha vincoli di mandato, risponde alla sua coscienza e risponde in commissione, in aula e tanto più sulle riforme costituzionali. Sì, dice che Renzi si comporta un po' come Grillo e Casaleggio. No, questo non so se sia Renzi. In questo caso la presidenza del gruppo, cioè non solo del gruppo nostro, vede. In questi ultimi giorni al Senato è successo qualche cosa che non ha precedenti, credo, nella storia del nostro Parlamento. E cioè prima è stato dimissionato dalla Commissione il senatore Mauro, Popolari per l'Italia. Poi il senatore Mineo e di fatto io. Ora, l'articolo è come se si dicesse: l'articolo 67 della Costituzione vale soltanto in aula, non in commissione, oppure a volte sì, a volte no, ma l'articolo 67 della Costituzione non è una concessione, è un punto di principio. E se il Parlamento è meno libero e se ogni parlamentare è meno libero di fare con coscienza, con coerenza e in modo trasparente, non nascondendosi, il proprio lavoro e il proprio impegno, sono meno liberi tutti i cittadini. Lei conosce un cittadino che sia più libero di un parlamentare? Luca Lotti dice: 13 senatori non possono permettersi di mettere in discussione il volere di 12 milioni di elettori e di bloccare le riforme. Boschi dice: il processo delle riforme va avanti, non si può fermare per 10 senatori. Come risponde? Intanto questa storia del fermare è una storia assurda, perché in realtà nessuno ha fermato niente. Noi siamo contro l'ostruzionismo, io ho fatto dichiarazioni, appelli, impegno perché l'ostruzionismo non ci fosse. Quindi fermare niente, veto niente. Il problema è un altro. Il problema è che una parte di Forza Italia, SEL, il Movimento 5 Stelle, la Lega vorrebbero che il Senato di domani, ridotto di numeri e ridotto anche il numero dei deputati alla Camera, fosse però eletto insieme alle elezioni dei consigli regionali dai cittadini, cioè che fossero i cittadini che conservano il loro diritto di scegliere i propri rappresentanti. Questo è il timore, questa è la questione. Allora, quando anche il Presidente del Consiglio dice non veti ma voti, benissimo, non veti infatti, nessuno li pone, ma voti, voti dei cittadini italiani per scegliere i propri rappresentanti. Senta, Chiti, ci si sente ancora bene dentro questo partito? Io mi ci sento bene, perché da questo partito, se vogliono, mi cacciano. Ho contribuito a realizzarlo, certo lo sognavo in modo un po' diverso, penso che dovrebbe migliorare, ha una grande potenzialità, come dimostra il 40% dei voti, non può essere un partito plebiscitario autoritario. Vede, quando Lotti dice 12 milioni di cittadini... 12 milioni di cittadini hanno votato per le elezioni europee e non è che hanno detto che va bene questo o quel tipo di riforma, questo o quel tipo di legge. Altre volte dicono ma ci sono state le primarie, certo, nessuno discute Renzi segretario. Lo vede brevemente, lo vede il rischio di una deriva plebiscitaria del PD? Se si dà un colpo alla rappresentanza e al ruolo dei gruppi parlamentari e se si ritenesse che quello che conta è appunto da un lato solo le primarie e dall'altro una sorta di centralismo autoritario, allora sì, la vedo, ma non credo che serva e che sia utile. Grazie a Vannino Chiti, senatore del Partito Democratico, buona giornata. Dario Ricci, ciao, buongiorno. Buongiorno, buon dia, mi viene da dire. Esatto, esatto, e soprattutto buona alba per te, o quasi in realtà. Dal Brasile, naturalmente, oggi finalmente il grande giorno, Dario. Eh sì, è proprio questo il titolo di O Globo, è arrivata l'ora, finalmente si comincia con questa coppa e si comincia a giocare a calcio. Riflettori puntati su San Paolo, stadio di Itaquerao, alle 17 locali, le 22 italiane, proprio il Brasile, i verde-oro, i grandi favoriti, ma anche quelli che hanno l'obbligo di vincerla questa Coppa, affrontano una Croazia insidiosa. Simone, attenzione, c'è quel Modric, l'abbiamo visto nel Real Madrid, Rakitic, insomma, non sottovalutare i croati, ma è chiaro che per il Brasile questo deve essere solo il primo passo verso la finale del Maracanã. Naturalmente, e questo da un punto di vista puramente sportivo, Dario, tra l'altro ci sarà modo di parlarne in tutti i convocati, non da partire dalle 14, insomma, di mondiali parleremo tantissimo, tra l'altro abbiamo visto di là qualcuno che si preparava, perché oggi a tutti i convocati c'era anche musica brasiliana dal vivo, roba pazzesca. Ma al di là di tutto questo, in realtà poi ci sono altre questioni che sono quelle che riguardano le tensioni che attraversano il Brasile in questo momento. È da registrare di oggi lo sciopero dei lavoratori degli aeroporti di Rio de Janeiro. Sì, è uno sciopero di 24 ore, in realtà dovrebbe durare solamente oggi e coinvolge buona parte del personale di terra, quindi problemi sull'aeroporto di Rio, mentre per quanto riguarda proprio San Paolo è stato sospeso lo sciopero della metropolitana, c'erano stati già due giorni di sospensione. Ieri i lavoratori in assemblea hanno deciso di non scioperare oggi, sarebbe stato sia un danno d'immagine sia il caos totale per il traffico di una metropoli di 20 milioni di persone, però chiaramente anche quella vertenza non è risolta, è stato inteso come un atto di buona volontà da parte dei lavoratori, però anche quello è un capitolo aperto. Direi che oggi probabilmente ci sarà un momento di pausa in questo senso, in attesa della partita, visto anche poi quello che è stato l'appello della Presidenta Rousseff ieri, che è stato un po' un'esortazione a tutta la nazione a impegnarsi al meglio per la riuscita di questa Coppa dalle tante contraddizioni. Naturalmente, e chissà che succederà questa sera se il Brasile perde contro la Croazia, tra l'altro non è, come ci spiegai, non è improbabile. Voglio venire con te, Dario, anche alla questione dell'organizzazione, poi questo ci consente anche di arrivare al punto sull'Italia, perché abbiamo visto delle immagini del campo dove dovrà giocare l'Italia in condizioni mostruose. Sì, è vero, Manaus sappiamo che è la sede più critica di questo mondiale, che dove pure i problemini e i problemoni non mancano, era la sede che tutti volevano evitare per giocarci qualsiasi partita, noi ci andiamo ad esordire con tutti i rischi del caso. Sia la federazione inglese che la federazione italiana si sono mosse ufficialmente nei confronti della FIFA con delle lettere di segnalazione in merito al problema del campo, ma non fa pensare nulla di buono, oltre al fatto che anche lo stadio di Manaus ha avuto diversi problemi in questa marcia d'avvicinamento alla Coppa. Quindi è solamente una delle criticità di questo mondiale. Devo dire che anche la stampa brasiliana non ha nascosto il problema di settimane con i suoi reportage. C'è un Globo che ogni giorno dedica una pagina sede per sede, città per città, tutto quello che non è stato fatto. Ultima domanda, Dario, i nostri, io te lo richiederò ogni volta perché poi ci arrivano gli sms degli ascoltatori. Allora, innanzitutto quando giocano e poi dacci le ultime. Allora, noi sincronizziamo gli orologi, si gioca sabato 14 giugno alla mezzanotte italiana, che sono le ore 18 di Manaus, perché rispetto a Rio c'è un'ora in più di fuso orario. Questa vale anche come comunicazione. E per fortuna che è sabato, tra l'altro. Ecco, esatto. Quindi si può fare anche alla fine, la partita finirà verso le 2 di notte. Tra l'altro potrebbero esserci anche quei time out che allungheranno la partita, no? Lo sai, Simone, perché la FIFA a mezz'ora, un'ora e mezza dall'inizio della gara valuterà le condizioni meteo e soprattutto di umidità e di caldo in ogni partita, e nel caso il medico della FIFA dovesse dare parere favorevole ci saranno anche due time out di 3 minuti per tempo, quindi una novità, diciamo, un calcio che si avvicina al basket per adeguarsi al clima veramente difficile di molte zone qui del Brasile. Quindi questo è l'appuntamento. I nostri come ci arrivano? Beh, l'idea tattica di Prandelli è abbastanza chiara, cioè quella di lanciare Verratti a fianco a Pirlo, il centrocampo di qualità. Certo, la grande incognita è il rebus, il dubbio Balotelli immobile, no? Difficile, secondo me, che Balotelli venga bruciato, cioè partendo dalla panchina, no? Sarebbe un po' uno stravolgimento di tutte le gerarchie del gruppo. Però Prandelli, visto questo immobile, potrebbe pure farlo. Allora vedremo che cosa succederà. Naturalmente, Dario, continueremo a sentirti anche in tutti i convocati e naturalmente nei giornali radio e qua in Effetto Giorno, non sempre in diretta, magari con servizi, approfondimenti e racconti. Intanto grazie, Dario, e che dire, insieme a buon lavoro anche buon divertimento, perché insomma vedersi un mondiale dal vivo è anche un piacere. Dario, buona giornata. Noi ci fermiamo e tra un attimo veniamo alla borsa, dove tra l'altro sui temi dei mercati finanziari stanno arrivando delle notizie importanti dalla Banca Centrale Europea, perché è entrato in vigore il tasso negativo sui depositi che le banche fanno presso la Banca Centrale Europea. Ebbene, in un giorno il calo dei depositi si è passati ai 25 miliardi a 13,6 miliardi sostanzialmente dimezzati, quindi i primi effetti delle manovre di Draghi. Vedremo i mercati se reagiscono e come reagiscono. A tra un attimo. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Chiesa sul Mose, il sindaco di Venezia Orsoni ha patteggiato e torna libero. Stanno arrivando su questo tra l'altro alcune precisazioni. Orsoni ha patteggiato attraverso i suoi legali con i PM dell'inchiesta 4 mesi. Sulla congruità del patteggiamento dovrà esprimersi il GUP, lo ricordiamo, indagato per finanziamento illecito. 13 senatori del PD si sospendono per solidarietà con Corradino Mineo e Vannino Chiti, sostituiti d'Imperio in Commissione Affari Costituzionali. Cresce lo scontro con Renzi, lo stesso Chiti poco fa ha parlato di rischio di deriva plebiscitaria ai nostri microfoni. In Iraq l'esercito avrebbe ripreso il controllo della città di Tikrit, ma gli jihadisti dell'ISIS sarebbero in movimento su Baghdad. Fallisce la riunione del Parlamento che doveva proclamare lo stato di emergenza. Sui mondiali ci siamo, si parte stasera con la cerimonia di apertura e poi Brasile-Croazia. La borsa. Borse in diretta. È una giornata, a dire la verità, senza infamia e senza lode a Milano, perché siamo in calo, ma di pochissimo, meno 0,03% sul FTSE MIB, FTSE Share meno 0,05%, Francoforte lievemente positiva dello 0,09%, Parigi dello 0,23% e Londra su dello 0,12%. Chiara Di Cristoforo, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, ciao, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno a te. Allora, davamo poco fa la notizia arrivata appunto dalla Banca Centrale Europea, è scattato oggi il tasso negativo sui depositi che le banche fanno presso la BCE, c'è stata, come era anche prevedibile, una vera e propria fuga dai 25 miliardi di ieri ai 13,6 miliardi di oggi, ma in realtà i mercati tutto questo probabilmente lo avevano già scontato, Chiara, no? Sì, sì, questa era una notizia assolutamente scontata, quindi non c'è stata praticamente nessuna reazione. Oggi diciamo che c'è l'indecisione che regna, nel senso che i mercati sono stati in altalena per buona parte della giornata, adesso aspettano qualche indicazione in arrivo dagli Stati Uniti nel pomeriggio con i dati sulle vendite al dettaglio e sui sussidi alla disoccupazione. In mattinata erano un pochino migliorati gli indici dopo la produzione industriale europea di aprile, migliore delle attese. E Milano aveva reagito bene anche all'asta dei titoli di Stato, oggi BTP a 3,7 e 30 anni, tutti con rendimenti in calo e buona domanda. Quindi una giornata un po' così che segue dei forti rialzi post Draghi e post BCE. A questo punto i mercati devono decidere se continuare a salire oppure se prendere un po' di profitto dopo la corsa che hanno fatto finora. Allora, bene Saipem più 1,8%, Popolare Emilia Romagna 1,5%, Ubibanca lo 0,91%, Enin lo 0,89%, Telecom Italia lo 0,76%, in negativo Moncler di 2 punti percentuali, World Duty Free dell'1,7%, Ferragamo di 1,5%, Autogrill dell'1,35%, Intesa San Paolo dell'1,33%. Questo è il quadro, grazie Chiara Di Cristoforo, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Grazie. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ci sono arrivati molti sms da parte vostra sull'intervista che abbiamo realizzato con Vannino Chiti, o nella fattispecie su Chiti. Diciamo che gran parte, anzi direi la quasi totalità, non li possiamo leggere perché contenenti affermazioni non proprio gradevoli nei confronti del senatore. Usciamo dal nostro ombelico. Massimo Marotti, ambasciatore italiano a Baghdad. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Vorrei capire da lei qual è la situazione in città e che cosa sapete dal terreno. Allora, in città, Baghdad, la situazione è normale come negli altri giorni, nel senso che anche ieri ci sono stati degli attentati, ma questi sono attentati che sono quotidiani a Baghdad. Quindi non c'è nessuna novità da questo punto di vista, c'è un maggior dispiegamento di forze nei punti di controllo che sono permanenti in città e ci sono dei nuovi punti mobili, misure diciamo di sicurezza che sono ovviamente compatibili con la situazione in cui versa il paese dopo gli attacchi dei giorni scorsi a Mosul e nelle altre città che sono poste nel centro-nord del paese, tra Mosul e Baghdad. Da quello che vi risulta, ambasciatore, abbiamo letto che i ribelli jihadisti, il cosiddetto ISIS, avrebbe intenzione di muovere proprio sulla capitale, appunto su Baghdad, e però da altre fonti ci è arrivata notizia che in realtà l'esercito avrebbe ripreso il controllo di Tikrit. Voi che tipo di notizie avete? Dunque, l'obiettivo di arrivare fino a Baghdad è presente nei documenti strategici dell'organizzazione da tempo. L'area a cui mirano è un controllo dalle coste del Libano fino a Baghdad. Sul terreno le notizie sono ieri di un'avanzata abbastanza rapida fino a Samarra, che è una città importante ma a sud di Tikrit. Ed è corrisponde al vero, nel senso che abbiamo avuto conferma di una risposta militare delle forze federali più significativa, soprattutto a Samarra e a Tikrit, ma le notizie sono ancora abbastanza confuse. Tenga anche presente che queste colonne di miliziani spesso sono sostenute da sostenitori che sono già in loco, quindi gli scontri che ci sono attualmente coprono una fascia territoriale abbastanza ampia che arriva anche al fianco sud di Baghdad. Ci sono dei focolai di scontri che vanno avanti da diversi mesi. Questi nuovi, successivi all'offensiva di ISIS dal nord, da Mosul, al momento ci risultano concentrati nella città di Samarra, che è a circa 150 km a nord di Baghdad, mentre gli scontri, che sono di più vecchia data, sono nella parte orientale della città, Fallujah, la città che il nome tutti ricordano, sì. Che è a circa 50 km da Baghdad. Da Baghdad. Un'ultima domanda, ambasciatore, non so se ci può fornire questa valutazione oppure no. Abbiamo saputo che stamattina è saltata per mancanza del quorum la sessione del Parlamento iracheno che doveva decretare lo stato di emergenza proprio a causa di questa offensiva. Lo giudica un segnale preoccupante? Il processo costituzionale ora di formazione del governo pone insomma, l'Iraq e il sistema politico in una situazione particolare, perché il Parlamento cesserà di operare il sabato e quindi questo era considerato sostanzialmente l'ultimo atto dovuto. Considerando che non è stata ancora proclamata, i risultati non sono stati ancora proclamati dell'elezione del 30 aprile, comunque a partire da domenica il governo si troverà di una situazione da gestire di crisi, indipendentemente dalla concessione del provvedimento di stato di emergenza. Quindi è una situazione che se non ci fosse la proclamazione dello stato di emergenza dovremmo verificare giorno per giorno come il governo intenderà risolvere la crisi. La mancanza del quorum era in qualche modo una possibilità attesa, perché non c'è unità di intenti in questo momento su chi debba gestire la leadership politica in questa fase di crisi e con quali garanzie per le forze politiche che appoggerebbero in questo caso il governo temporaneamente in carica. Siamo a una scadenza politicamente importante e allo stesso tempo in una crisi gravissima. Siamo in particolare una particolare situazione in cui tra vincoli costituzionali e confliggenti visioni politiche, questa sospensione del voto che potrebbe essere ripresa in serata e in qualche modo si spiega. La ringrazio, grazie a Massimo Marotti, ambasciatore italiano a Baghdad, che magari nei prossimi giorni torneremo ad interpellare per avere chiarimenti e aggiornamenti sulla situazione. Andiamo a chiudere, non prima di esserci collegati con Genova, dove cambia proprietario la Sampdoria. Andrea Ferro, buongiorno. Sì, buongiorno, vi parlo dallo Star Hotel. La conferenza stampa è terminata 5 minuti fa e si è presentato il nuovo presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, romano, appassionato di calcio, così si definisce, ma soprattutto noto per essere uno dei più importanti produttori cinematografici. Una notizia che è caduta come un fulmine a ciel sereno, una città insoleggiata, col sole molto forte e con l'afa che sembrava in qualche modo aprire un'estate senza particolari notizie sul fronte del calcio. Invece appunto c'è stato questo annuncio, una conferenza stampa che è stata convocata all'ultimo momento da Edoardo Garrone, che ha aperto, lo stesso Edoardo Carrone, leggendo un testo, ha detto: sono costretto a leggere questo testo perché oggi per me è un giorno molto particolare, non voglio farmi tradire dall'emozione. In 12 anni la Samp l'abbiamo salvata due volte, una mio padre nel 2002, io 4 anni fa dopo la retrocessione. Poi in sostanza ha riassunto 7 anni di contatti con vari imprenditori italiani e stranieri che in qualche modo si sarebbero fatti avanti in questi anni per chiedere di acquistare la Sampdoria, ma la prima vera proposta che lui ha definito credibile, interessante, cristallina, è stata quella avanzata poche settimane fa da Massimo Ferrero, il quale in realtà ha detto che erano 2 anni che sognava di acquisire la Sampdoria e quindi ha iniziato ad avviare una trattativa criptata attraverso una serie di filtri. Solo negli ultime settimane Garrone ha conosciuto il nome dell'acquirente, quindi chiaramente un uomo di spettacolo, e lo ha sottolineato anche nelle sue movenze, nelle sue battute. Ha subito indossato la maglia numero 10 che era stata preparata preparata dall'ufficio stampa con chiaramente Ferrero scritto dietro. Ha detto oggi è il mio compleanno, quindi in una certa maniera. Allora Andrea, io intanto ti ringrazio per questo aggiornamento. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E ora Mario Platero con America 24. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. I think that they have a lot of tools that they have to continue to grow, but they have to make the right policy decisions. Jack Lew, l'avete sentito, il segretario al Tesoro americano, sempre molto interessato all'Europa, soprattutto lunedì quando ha incontrato il nostro ministro per l'economia, Piercarlo Padoan. Un incontro importante perché? Beh, perché si comincia a parlare in modo molto concreto di presidenza europea dell'Italia, e dunque l'America è molto interessata alle politiche della crescita, l'Italia è interessata alle politiche della crescita naturalmente, l'Italia di Renzi, l'Italia di Padoan, e dunque c'è una sintonia di vedute quando l'amministrazione Obama e il governo italiano si incontrano cercando di identificare delle priorità di stimolo economico per l'Europa. Si tratterà di capire se questo sforzo congiunto, se questa comunanza di vedute possa poi essere accettata anche dai paesi forti dell'Europa come la Germania, che invece sono molto più per il rigore. Una visita, devo dire, questa del nostro ministro molto articolata. Padoan è di casa in America, ha lavorato a Washington e conosce bene gli ambienti della capitale, conosce gli ambienti finanziari a New York, ha incontrato Warren Buffett, ha incontrato i vertici di Citigroup. Ecco, io più volte però vi dico e vi racconto che da questa parte dell'Atlantico l'interesse per l'Italia si ferma nel momento in cui l'Italia diventa un paese difficile per chi vuole fare business. E dunque questo l'abbiamo chiesto al nostro ministro, l'ho incontrato ieri, e dunque gli ho chiesto qual è, dal punto di vista degli imprenditori, la riforma più importante. Sentiamo cosa mi ha risposto ieri il ministro quando gli ho chiesto qual era la priorità. La giustizia lenta e la difficoltà nel muoversi nella giurisprudenza che regola per esempio le situazioni fallimentari e la posizione dei creditori in queste situazioni. E gli altri problemi come sono inquadrati? Come ho detto prima, quello che ci si chiede è semplificare la pubblica amministrazione, renderla più efficiente, in molti casi anche grande attenzione alla riforma sul mercato del lavoro che semplifica, facilita le relazioni e che in alcuni casi veniva vista come un fattore che potrebbe aumentare anche in modo importante l'insediamento produttivo in Italia di imprese straniere. Il discorso sulla concorrenza, sulla competitività, venendo in America, non sarebbe completo se non si parla anche di dollaro, dollaro che resta debole, euro che resta forte. E su questo il ministro ha le idee molto precise. Sentiamo. Il valore del dollaro, che è evidentemente relativamente troppo debole rispetto a quelli che possono essere i fondamentali, riflette anche però il fatto che, non dimentichiamocelo, la zona euro è una zona con un elevato surplus di parte corrente e che sta ricevendo afflussi di capitale provenienti dai paesi emergenti o che lasciano i paesi emergenti, quindi questi due fattori tengono l'euro elevato rispetto a quello che sarebbe coerente con un equilibrio degli scambi commerciali e quindi con un livello di attività in Europa. Ma al di là di queste che sono tematiche tipiche, le tematiche di cui diciamo in un modo o nell'altro si continua a parlare molto tempo, c'è una tematica atipica che ci riguarda direttamente, che riguarda la nostra economia, che riguarda i costi per la nostra economia o i vantaggi per la nostra economia, ma secondo me i costi, cioè quello di una immigrazione clandestina, di un'immigrazione illegale che sta superando, secondo alcuni, quei confini che ci consentono di mantenere una posizione di equilibrio dal punto di vista di vantaggio o svantaggio economico. Ve ne parlo perché l'immigrazione clandestina se ne sta parlando anche molto in America. Perché? Beh, ve l'ho raccontato ieri, c'è stato un terremoto politico. Eric Cantor, il numero due del partito repubblicano alla Camera, un uomo potentissimo, eletto 7 volte alla Camera, 51 anni, uomo brillante, lanciatissimo, è stato bocciato alle urne, sconfitto da un tipartista sconosciuto. Su che fronte? Sul fronte dell'immigrazione. But I will say that my position on immigration. Ecco, Cantor rifiuta nella sua conferenza stampa di dare una valutazione politica. Dice: questa la darete voi, ma la valutazione politica la conosciamo. Il Tea Party improvvisamente si è rafforzato, il Tea Party, movimento estremista, movimento che crea, come dire, dei problemi ai repubblicani centristi, quelli che vorrebbero riconquistare la Casa Bianca, che si rendono conto che il voto delle minoranze etniche, che il voto delle donne, come dire, emigra in massa verso il Partito Democratico proprio perché c'è una politica, come dire, ostruzionista da parte delle minoranze estremiste, minoranze del partito, ma straordinariamente attive, in grado di sconfiggere un uomo potente come Cantor. Su che tema? Ve lo dicevo, sull'immigrazione. E qui lui dice in questa dichiarazione: la mia posizione sull'immigrazione non è cambiata, credo che una riforma sia necessaria e che bisogna procedere un passo alla volta, partendo dagli elementi che accomunano repubblicani e democratici. La colpa di Cantor è quella di aver accettato un dialogo coi democratici per cercare una posizione comune sull'immigrazione. È un problema per l'America, ma è un problema anche per noi. Ve l'ho raccontato durante il viaggio europeo del presidente Obama. Un alto funzionario della Casa Bianca mi ha detto: siamo preoccupati dal Mediterraneo, il fronte più debole dopo quello dell'Ucraina. L'Italia è apertamente schierata. I rischi sono immigrazione clandestina, la Libia che rischia di essere esplosiva, infiltrazioni terroristiche. E dunque ho chiesto al nostro ministro, proprio nel contesto di questo scandalo americano, quale fosse la sua posizione, la posizione del governo, sul rischio di una esplosione continua di questa immigrazione clandestina. Sentiamo. È vero che c'è un costo di immigrazione, ma c'è anche un beneficio, soprattutto nel medio termine, perché un'immigrazione stabile e ordinata aumenta la crescita del paese e, tra l'altro, in alcuni casi migliora la finanza pubblica. Il fatto che ci siano questi giganteschi numeri di immigrati clandestini che sono spinti in Italia da condizioni terrificanti nei loro paesi di origine è innanzitutto un problema umanitario che riguarda l'Europa nel suo complesso, quindi l'Italia è in prima linea, ma è l'Europa che nel suo complesso si deve prendere carico di questa questione. Ecco, ma c'è un messaggio da lei come Ministro dell'Economia che, appunto, come diceva, forse c'è un limite al di là del quale ci dobbiamo preoccupare come Paese? Ma guardi, è molto difficile trovare un limite, tutte le soglie quantitative sono a volte, come dire, fuorvianti. Non credo che ci sia un limite, l'immigrato successivo a quel limite fa scattare un campanello d'allarme. Bisogna vedere la situazione strategica complessiva, il problema che lo conosciamo, non esiste un numero magico oltre il quale bisogna fare qualcosa e al di sotto del quale non bisogna fare niente. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24. Ed è tutto anche per Effetto Giorno. Un ringraziamento a Fabio Cantadori in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Effetto Giorno a radio24.it per scriverci. La trasmissione torna domani alle 13. Non ci sarò io, ma ci sarà Alessio Maurizi. Per quanto ci riguarda, ci risentiamo tra un attimo con GR24.